questo calo di presenze di appassionati è notevole, è sinceramente notevole. È notevolissimo e sotto gli occhi di tutti, assolutamente. Diciamo che dal 94, diciamo da quell'anno lì, 94-95, quel campionato lì, insomma, a ora sono passati 22 anni, d'acqua sotto ponti ne è passata tanta, e il mondo è cambiato. È cambiato il mondo, è cambiato anche il calcio. È cambiato il calcio e l'approccio al calcio, e soprattutto è cambiato quello che è il rapporto della gente con il calcio. Se prima il calcio era un simbolo forte di vita spontanea di un paese, di una popolazione, di una comunità di tifosi che vivevano la propria relazione con un elemento anche territoriale della propria squadra, della propria zona, con una visceralità che oggi sarebbe quantomeno fuori luogo per tanti versi. Basta guardare alle categorie più importanti, tra virgolette, come Serie A e Serie B. Gli stadi ormai sono delle militarizzazioni, delle gabbie invivibili, contornelli, delimitazioni pazzesche, biglietti nominali. Il tutto nel tentativo di sostituire il tifoso classico con un tifoso da McDonald's, che è un'opinione personale mia, ma credo condivisa da tanti, che nella storia del calcio non è mai esistito. E la difficoltà proprio di far uscire fuori questo nuovo tifoso, questa particolarità, questa peculiarità di tifoso che fondamentalmente spende, è difficile da far nascere, ecco. Effettivamente questo che tu ci hai detto io lo condivido. Pensando un attimo a Montevarchi, no? Recentemente, nella storia più recente, Montevarchi ha vissuto alti e bassi, molti bassi. Molti bassi, moltissimi bassi. E i molto bassi vuol dire proprio molto in basso, non solo molti anni di basso, ma molto in basso. Madre. E nonostante questo, sembra che negli ultimi anni a Montevarchi ci sia comunque una passione, una voglia rinata, un qualcosa di molto particolare, che magari guardando anche altri posti molto più grandi rispetto a Montevarchi, ma anche più piccoli, però città, magari Montevarchi, che alla fine fa circa 25.000 abitanti, ma città che ne hanno 4 volte tanto o 8 volte tanto, che si ritrovano a vivere una situazione di passione al di là del calcio, al di là dell'aspetto del calcio, delle curve e tutto quanto, però una cosa di passione molto molto minore. E invece a Montevarchi questa cosa, seppur in qualche modo si è assopita, perché per effetto di tante cose, fra cui quelle che hai detto tu prima, però invece che assopirsi in maniera irreversibile, anzi ha trovato una spinta per rinascere. Quindi quello che dal tuo punto di vista, perché chiaramente si parla di punti di vista, certo, però te che conosci molto bene un certo ambiente montevarchino, che è probabilmente uno degli ambienti in cui la montevarchinità si esprime in maniera molto più preponderante rispetto ad altre cose, perché questo movimento passionale a Montevarchi resiste e ha resistito in qualche modo a dei colpi di accetta molto molto forti. Io direi che questi ultimi anni, dal 2011 in poi, dal fallimento in poi e dalla rinascita, sono stati anni vissuti assolutamente alla Montevarchina. Nel momento in cui tocchi il punto più basso della tua storia, la seconda categoria dopo un fallimento, in cui ti aspetteresti l'indifferenza totale, in cui ti aspetteresti di rimanere solo con te stesso e con tu, ecco allora che ti spuntano trasferte oceaniche, ti spunta fuori l'orgoglio di una comunità che comunque ama la sua storia sportiva, ama una maglia e ama i suoi colori. Bisogna dire che sinceramente c'è più gente ora, c'è stata più gente in qualche partita di questi ultimi anni che quando si era in C1. Perché questo? Perché probabilmente anche nei momenti più bui, anche nei momenti più tristi, anche nei momenti in cui allo stadio non c'era nessuno, comunque del Montevarchi si è sempre parlato. Anche tra di noi, anche tra tifosi, comunque si sono fatte delle scelte che avevano come prima intenzione sempre quella di fare il bene ai Montevarchi. Anche lasciare deserto lo stadio in un derby con la San Giovannese poco prima della radiazione in eccellenza aveva comunque il senso di dire basta con questo schifo, basta con questa agonia e speriamo che finisca presto. E non è che è stata una scelta semplice, una scelta presa così a cuor leggero. Comunque tutto è stato fatto perché il Montevarchi potesse tornare a essere patrimonio di Montevarchi e dei Montevarchini. Sì, io se posso ricordarmi o qualcosa, cioè non si poteva altro che viverla alla Montevarchina, perché io onestamente mi ricordo gli anni, gli ultimi anni di Bandito Giuliano, che sono stati veramente molto peggio rispetto anche a questi ultimi 3 o 4 anni in cui siamo andati a giocare in dei campi veramente che sì, sembrava fossero stati arati la mattina. Sì, quindi nel senso non potevi altro che viverla alla Montevarchina per riuscire a risollevare o anzi a mantenere a livello, anche addirittura a migliorare la partecipazione dei tifosi, del pubblico rispetto alla città. E il bello è che ci è anche piaciuto, sinceramente. Io mi sono divertito un matto dalla seconda categoria fino adesso, sinceramente. Personalmente anch'io. Anzi, io sinceramente mi divertivo meno quando si perdeva Derby e San Giovanni. Anche se c'erano tanti in quella partita lì. Però, insomma, andare a giocare, ne so, come hanno detto, ho visto la città in tutti, tipo Salutio. Io sono contento di essere stato a Salutio, sono orgoglioso di essere stato a Salutio, sinceramente. Io sono stato a Salutio come sono stato a Ferrara, a Livorno, a Como, a qualsiasi altra parte. Salutio, per chi non lo sapesse, è un piccolo paese, frazione di una città più grossa, però una frazione come potrebbe essere rispetto a Montevarchi, per chi ci ascolta e non ci conosce, rispetto a Montevarchi come potrebbe essere un quartiere. Sì, che però la cosa bizzarra è che, siccome per chi non lo sa, abbiamo vinto il campionato d'eccellenza tornando in Serie D dopo alcuni anni, diciamo, di inferno o purgatorio, la citazione fatta da tutti come punto più basso era sempre bizzarramente l'esempio Salutio come la trasferta, come il punto più basso toccato, perché chiunque parlava in queste ultime settimane da Salutio fino ad arrivare a vincere, quindi nel senso si è recitato anche noi Salutio, e stavo bene anche spiegarlo, perché comunque sto Salutio sta diventando il mito negativo della storia di Montevarchi, no? Sì, alla fine Salutio è un mantra che i montevarchini recitano alla Montevarchina e che portano in dote, si potrebbe dire così, secondo me, in dote a chi ci sposerà nel futuro come montevarchini, alla fine, al di là del calcio e al di là di tutto quanto. Però avere avuto nella storia una esperienza a Salutio per i montevarchini è un dono, alla fine è un qualcosa in più, è un surplus. Guarda, se posso dire una cosa, io non ho scelto di andare a giocare a Salutio, ma ho scelto di andare a vederci i Montevarchi e mi ci sono divertito alla Montevarchina. Questa poi credo sia il riassunto degli ultimi anni dell'essere stato Montevarchi. È perfetto, e poi alla fine ci sta che continuare a citare sto Salutio porti pure bene. Quindi continuiamo a parlare di Salutio, magari tra 2 anni siamo in C1, anche se la C1 non esiste più, però l'equivalente. Comunque io volevo tornare a quel 14 maggio 1995, a quella partita di cui parlavi contro il Sandonà. Sandonà vinceva a Montevarchi la penultima giornata di campionato, era in testa alla classifica a 2 punti sopra il Montevarchi, esatto. Seconda, vinceva 2-0 alla fine del primo tempo. Sì. Da lì parlavi di una remontata simile a quella dell'ultimo Barcellona di Champions League di qualche settimana fa. Sì, esatto. È successo di meglio, anche perché comunque poi la remontata lì è Barcellona di esservi a po', perché alla fine dalla Champions League è uscito in qualche altro modo a causa di qualcun altro, che è meglio non citare perché qui nessuno lo tifa. Però a prescindere da questo, che successe dopo la fine di primo tempo 2-0 che diluviava il cielo nero, situazione veramente pazzesca. Successe che andammo sul 2-1 dopo pochi minuti, mi pare di ricordare, dopo pochi minuti all'inizio del secondo tempo, e sul 2-2 intorno all'80esimo, poi minuto più minuto meno, ma la sostanza è quella. E comunque serviva vincere per assolutamente, poter operare il sorpasso assolutamente, a una giornata alla fine, perché erano più 2 loro, quindi solo 3 punti avrebbero dato. Con una partita ancora da giocare poi. Sul 2-2, poi andammo sul 3-2 con gol di Manolo Ermini e lì successe il finimondo. Tra l'altro con la pioggia, i fumogeni, io mi ricordo che sul gol del 3-2 ero in balaustra e mi sono sentito saltare addosso da non so neanche chi, ho visto la gente si riversava in campo. Da lì è stato un misto di emozioni, per cui il 4-2 di Arcadio non l'ho neanche visto perché ero già al cancello davanti alla tribuna. E poi sono entrato in campo anch'io sul 4-2 e mi sono rotolato sul campo nel fango, perché nessuno ci credeva a quello che stava succedendo. È stato l'antipasto e l'apripista della trasferta oceanica di Lugo di Romagna della settimana successiva con 3.000 montevarchini al seguito. Però se posso mettere nella classifica delle emozioni, la partita nel San Donà è stata assolutissimamente quella sul podio più alto, ecco, sul gradino più alto. E beh, il podio più alto, comunque ancora oggi la partita viene raccontata a Montevarchi, un po' come ce l'ha raccontata te, come un momento mitico, insomma, per chi l'ha vissuto, ad esempio io no, tra l'altro io non c'ero. Io c'ero però negli anni seguenti, quando iniziava ad essere consegnata all'ingresso della curva la fanzine Meninos de Rua, che ti ha visto protagonista, ideatore, redattore, e che a mio avviso è stata una cosa importantissima. Cioè io personalmente, essendo sempre stato un po' uno scribacchino di volontà, diciamo, ho iniziato a scoprire il mondo delle fanzine dalla fanzine in curva, tant'è che poi nelle mie esperienze in seguito ho fatto anch'io altre fanzine su altri argomenti eccetera. Però tra l'altro, se te lo posso anche dire, il modo di scrivere esatto, e tu avevi te nei tuoi pezzi alla fanzine, è una delle mie ispirazioni che ho copiato tanto nel futuro. Questo è un complimento e me lo gusto tutto, questo è un complimento bellissimo detto da Julian Carax, che oggettivamente secondo me è uno dei giornalisti più promettenti d'Italia, onestamente. Sì, tra l'altro, se si vuole mettere un carico anche a questa cosa, Julian Carax qui presente, Andrea Barzimelli, sono anche due quarti di House of Varchi. Chi è qui a Montevarchi sicuramente si ricorderà un anno fa nascere e perculare una campagna elettorale storica cittadina che ha portato, direi, per la prima volta il centrodestra a governare Montevarchi. Pare sia stata colpa nostra, qualcuno ha detto che era colpa nostra. Tra l'altro mi preme anche ricordare che nella sua origine House of Varchi ha visto la partecipazione anche di Fumino. Esatto. Che beh, poi potevo mancare, scusatemi. Assolutamente no, che poi ha dovuto abbandonare per impegni istituzionali. Assolutissimo. L'istituzione mi ha voluto. Assolutissimo. E poi non t'ha voluto più, però. Poi no. Hanno fatto finta di non avermi mai avuto. Vabbè, quindi diciamo House of Varchi potrebbe anche stare alla base di questa puntata che stiamo conducendo. Comunque, anche se già ci si conosceva prima, diciamolo. Però comunque, certo, i percorsi si erano già incontrati da questo punto di vista. Comunque torniamo alla fanzine, è durata per non so quanti anni, raccontacela un po', perché comunque è stato secondo me uno scalino importante per alzare il livello di coinvolgimento e partecipazione dei giovani ultras, chiamiamoli così, come me, che iniziavano a venire allo stadio, rispetto anche a voi, avevate un'altra esperienza e un altro bagaglio, diciamo, culturale precedente. Sì, ma infatti credo che tu abbia colto la ragione e il senso della fanzine. La fanzina che si chiamava Meninos de Rua, ragazzi di strada, un po' come eravamo noi al tempo, dei ragazzi che vivevano la strada e la vita di tutti i giorni un po' così, con spensieratezza, anche lo stadio con una certa spensieratezza e semplicità e umiltà. Fu un'idea mia e di Filippo, un altro ragazzo dello stadio. Io ne sono stato il principale redattore, impaginatore, fotocopiatore e distributore allo stadio. Però mi preme ricordare che la fanzine non era firmata da me. Io la scrivevo con foga, con convinzione e con l'amore e la verve dei 20 anni, fondamentalmente. Però non la firmavo, perché quella era la voce della Sud, quella era la voce della curva e doveva uscire come curva. E va detto anche che all'esterno di Montevarchi era parecchio apprezzata, tante tifoserie ci hanno conosciuto e ci hanno apprezzato leggendo quella fanzine. L'intenzione era quella di creare comunque una certa, prima di tutto, un'informazione all'interno della curva su quella che è la vita della curva. Poi un bagaglio di informazioni e di contenuti anche culturali, tra virgolette, che comunque potesse essere la base di una curva che dura. Ecco, questo era fondamentalmente il suo senso. Poi è un'esperienza che è durata per 4-5 anni, mi sembra, arrivando ad avere anche in certi numeri tipo 12 pagine e 8-12 pagine che ogni 2 settimane uscivano. Sinceramente era roba, ecco. Al di là del contesto specifico per cui è nata la fanzine di cui ci stai parlando, e al di là di tutto questo, che chiaramente era rivolto al pubblico dello stadio o della curva sud nello specifico, però il sapere che la vostra voce, quindi la voce da un certo punto di vista di Montevarchi, usciva anche fuori e che era apprezzata anche fuori, vi ha dato mai lo stimolo a fare sempre meglio, a cercare di, in effetti, non solo essere la parola della curva sud di Montevarchi, ma la parola di Montevarchi, quantomeno dei montevarchini. Perché? Ora, non parliamo per assoluto, perché l'assoluto chiaramente non esiste, però la voce che voi davate ai montevarchini tramite la vostra fanzine poteva sì anche essere equiparata a una voce che stava fuori dal contesto stadio per cui era nata. Tra l'altro, nella parte finale della fanzine, se mi ricordo bene, la voce della curva che emergeva da Meninos de Rua raccontava anche una realtà molto diversa da quella che invece i dirigenti e l'allora già citato bandito Giuliano andavano a sbandierare in televisione, perché comunque si raccontava di una società sana, di una società che pagava gli stipendi, andava tutto bene, e la curva che protestava settimanalmente come proteste gratuite basate sul niente, quando in realtà poi diciamo che la storia ha dato ragione alla curva e quello che veniva denunciato ai tempi si è effettivamente manifestato. Comunque io personalmente, poi dimmi se sei d'accordo anche te o no, Meninos de Rua secondo me era pieno di montevarchinità. Io mi ricordo i racconti delle trasferte con i personaggi e nomi inventati, il principe, il vichingo, cioè io sono ancora a casa della mamma o alcuna di queste fanzine, e ora non vivo più a casa della mamma, finché ci vivevo ogni tanto prima di andare a letto me le rileggevo, ecco. Non per abusare di una parola che spesso viene usata a sproposito, però si può dire veramente che Meninos de Rua sia stato uno dei pochi esempi di controinformazione del Valdarno e di Montevarchi. Noi raccontavamo di un re che era nudo, raccontavamo di una realtà che era diversa da quella che ci veniva propinata, e a distanza di anni bisogna dire che aveva ragione. Si può praticamente dire che la vera controinformazione era l'informazione ufficiale, che parlava di una montevarchinità che in effetti in quel momento non esisteva, e quella che per tutti era la controinformazione in realtà era la vera informazione, che parlava in realtà di una Montevarchi che esisteva, che pulsava, che era viva e che era la Montevarchi dei montevarchini, e quella era in effetti una parte di montevarchinità in quel momento storico. Assolutamente sì, perché comunque noi eravamo quelli che pur nella tempesta continuavano a ballare e riuscivano anche a divertirsi in tutto questo. Sinceramente sono stati anni calcisticamente, mamma mia, deleteri e calcisticamente tremendi, ma io mi sono divertito come un matto, oggettivamente. Ho ricordi di trasferte, perché poi alla fine, a parte San Donà, i ricordi più belli sono quelli legati alle trasferte fatte in 5, in 10, in 50, quelle in cui comunque ti conosci in 10 ore di pullman e parli con tutti e vengono fuori delle situazioni assurde. Quelli sono ricordi che ti porti dentro per tutta la vita, poi alla fine, insomma, e quella gente lì è la gente che ti porti dentro per tutta la vita. Questa è, credo, l'esperienza più bella che posso legare alla mia curva. Dunque, per un non montevarchino, il punto di ritrovo della montevarchinità è stata lo stadio, il Brilliperi e, nello specifico, la curva sud. Chissà, per il prossimo ospite, cosa sarà la montevarchinità, cosa sarà essere montevarchini. Vedremo per il prossimo ospite come la montevarchinità potrà o non potrà trovare espressione attraverso la maglia rossoblè del Montevarchi Calcio. Noi per questa sera, per questa puntata, chiudiamo qui. Io saluto e ringrazio Andrea, che è stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie a te, Andrea. Ci rincontreremo ancora allo stadio, penso, assolutissimamente. Probabilmente domani sera, boh, domani all'altro, a Benavide. O allo stadio per le strade, perché comunque allo stadio a Montevarchi si sta insieme, ci si diverte, e poi c'è anche la partita, se uno gli piace il calcio. Ma è un dettaglio, ecco, assolutamente. Esatto, un dettaglio. Assolutamente un dettaglio. Bene, detto questo, alla Montevarchinien, carissimo Julian, siamo arrivati al termine di questa puntata di Ti racconto una storia, nello specifico il volo dell'Aquila. Un saluto e ringraziamento a tutti da parte mia, da parte di Fumino e anche da parte del nostro regista Simone Uncini. Alla prossima puntata. Te puoi mettere anche in pausa, tanto ora si riordina un po' le idee. Sai che ragazzi, mi trovo che c'è per i tenelli vicino alla voce. lo sai che servirebbe l'impalcatura? Perché se tu là un tavolo, allora Dio buono, sì, tu sì, che accrivi, sì, capito?